快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台，北京音乐广播。 Soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场，我是你的朋友。 Soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场，我是你的朋友古月。今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费多拉》，由莫纳科·费比沃、高比·卡布奇里等演唱。 non piangeo, non ho abbastanza da bere, non è tardi, nessun timor, il ponte l'incaserà col sole, e l'ultima sua notte di libertà, domani prende moglie, già la principessa, Fedora Romazov, quella vedova fretta, ricca, passabilmente, 14 milioni, salute, a tempo il compiuto capo scarico. Le donnine, le carte, le bottiglie, i cavalli, niente. Si stava freschi, si stava freschi, che le donne si trasformi. Al padrone, alla sposa, alla bote, a lui. Silenzio, ricapitano, no. La principessa su sveglia di padrone. Thank you. finalmente. Quel uomo orrendo aveva lasciato sulla

e l'ombre che s'inseguono dall'una all'altra stanza lo cercano. L'ombre si sono riunite. L'ho preso. Signora. La rivedo. Dunque, morto. Fuggito. un bisticcio. Principessa, ci fate languir. Oh! notte e mio domani poi vedremo allora addio addio Oh. aurora.

che vorrà il diretto, è bravo! Dovete infame! Che dice? Ti attendo stasera alle 9! Thank you. Yes, ho! Diretta mia Parigi. Loris, ritorno presto. Subito, arrivederci. Oh, cominciava, suonava troppe fughe. Ginevra, è grave. Contessa, siete forte. Non cadrete in delirio. Una goccia soltanto. Allor, senza riguardi, il maestro polacco, nipote successore di Chopin, il poeta del pianoforte, eccetera. Sussurrandomi avanti. Non sarebbe un agente segreto. Una spia. Dall'imperial governo al vostro fianco messa. Per farvi chiacchierò. Fatevi cor contessa, qua giù tutto finisce e tutto ricomincia. Non è la prima volta e l'ultima sarà. L'amore ugel di posso, se ne viene per andarsene, se ne vo. So un rapimento. Come? In bicicletta. Amo di te correggerò con le stelle. Testolina sventata. Principessa, non son venuto qui per lei. Per me. L'amate molto. son io che li uccisi. Son pronta, che mi sembro deliziosa. Grazie, mi sfido a raggiungermi. Siete così leggera. E che tra i miei momenti di vantaggio è la costa. Il fossato nella notte affogato.

这里是歌舞剧场，今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费朵拉》，由莫纳科费比沃、高比卡夫奇利等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Stasera alle nove. sepia.